Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, mi sembra proprio il pomeriggio adatto per parlare insieme di questa penultima giornata di campionato che non scioglie il nodo scudetto, perché questo è uno dei tanti temi, perché come dicevo prima nel giornale radio, Totti disinnesca nel finale la festa nerazzurra che stava per esplodere. L'Inter batte il Chievo 4-3, ma anche qui tra le pieghe di questa partita l'Inter va sotto 1-0 con, dopo una traversa di Stankovic, un'autorete in mischia di Thiago Motta. Lo svantaggio nerazzurro dura 60 secondi perché poi c'è Mantovani a deviare con il sedere, ma realmente con il sedere, un cross di Eto'o, 1-1. Poi da lì l'Inter dilaga, Cambiasso 34esimo, e da questo minuto, al 34esimo del primo tempo, fino al 38esimo della ripresa, l'Inter avrà virtualmente lo scudetto numero 18 sul petto. Poi Totti glielo stacca e poi vi racconto come. Comunque Cambiasso al 34esimo, al 39esimo segna Milito con uno dei gol più belli della stagione, pallonetto dal limite dell'area dopo aver saltato un avversario. Quindi il punteggio diventa 4-1 al sesto della ripresa, altro pallonetto questa volta di Balotelli. Poi due reti del Chievo con Grenoche al 15esimo e Pellissi al 29esimo. Ma nel frattempo questo film va raccordato con quanto stava succedendo all'Olimpico di Roma, dove una Roma molto stanca, che mi è sembrata anche parecchio scarica e anche discretamente sfortunata, perché quarto palo di Totti, 42esimo palo di Motta, il romanista naturalmente. Al 15esimo della ripresa però il Cagliari, che ha fatto una partita onesta e dignitosa, ha sbagliato un gol facile con Gedà, quindi altra traversa della Roma al 25esimo. Insomma, la classica partita stregata che diventa una specie di psicodramma al 28esimo, quando una punizione di Lazzari batte e sembra abbattere la Roma. Però da lì al 34esimo Totti la rianima. Totti, dopo aver giocato una pessima partita, secondo me aver sbagliato molto, e non aver non essere riuscito a riaccendere, insomma, l'Olimpico che, insomma, era tutto dalla sua parte, richiamato anche da Ranieri nel prepartita, tutti vicini al nostro capitano, con una dichiarazione che, sulla quale vorrei anche discutere magari anche con voi. 800 24 00 24 è il numero verde. Comunque diagonale di Totti al 34esimo ed è 1-1, ma l'Inter è sempre campione d'Italia. 4 minuti dopo, 38esimo, mani netto di Biondini in area, calcio di rigore, Totti trasforma, la festa dell'Inter svanisce almeno per il momento, e la Roma per un'altra settimana ci crede, dovrà crederci in questo titolo, che rimane comunque, secondo me, al di là delle tante chiacchiere, dei soldi di mezza Roma, delle parole di Mourinho, delle polemiche, rimane molto più vicino a Milano che non a Roma. Comunque, questo è il balletto dello scudetto, prima cucito e poi strappato proprio da Francesco Totti, appunto. Altri verdetti: c'è un terzo posto che diventa definitivo del Milan, che pure perde a Genova in una partita, nella partita delle porte chiuse, nella partita del fallimento di fatto dell'idea della tessera del tifoso, mi pare, no? Perché nella notte, come sapete, il prefetto ha detto: ok, milanisti 341 mi pare che hanno la tessera del tifoso in tasca, possono anche stare a casa loro, non entrano neanche i genovani, non c'è pubblico, non c'era pubblico a Marassi, e il Genoa vince 1-0 in questa partita surreale, molto triste, gol di Sculli. Il Genoa però in questo caso non riesce a fare un favore alla Sampdoria che stava vincendo 1-0 la finale per il quarto posto, in pratica il confronto diretto di Palermo. Dopo 9 minuti della ripresa, rigore netto trasformato da Pazzini. Al 23esimo però altro rigore pure indiscutibile trasformato da Miccoli, ed è 1-1, e dunque Sampdoria 64 Palermo 62. Rimane qualche briciola di speranza per il Palermo. Mentre il Milan, pur perdendo questa partita 67, ha 3 punti in più della Sampdoria, però non può, cioè può essere raggiunto ma non superato dalla Sampdoria, perché ha i confronti diretti favorevoli, nel senso che una vittoria per parte, però all'andata 3-0 per il Milan, al ritorno 2-1 per la Sampdoria, vale la regola della differenza reti nei confronti diretti in questo caso, e dunque il Milan sarà in Champions League senza preliminari. Chi dovrà giocare invece i preliminari di Europa League e dunque avrà un'estate lunghissima è la Juventus, che ha perso in casa 3-2 con il Parma, a coronare in modo coerente, secondo me, una stagione salutando in questo modo i suoi tifosi, a coronare in questo modo una stagione da dimenticare tutta intera. I gol di dopo Del Piero segnano doppietta di Lanzafame, poi il terzo gol di Biabiani, quindi nel finale, 48esimo secondo tempo, la rete di Diaquinta, peraltro partita che è rimasta interrotta per una decina di minuti perché i soliti ingiubbottati di nero, alla faccia delle tessere, dei controlli eccetera eccetera, hanno deciso di far casino, e dunque i due capitani, questo succede solo in Italia, e questo ci rende davvero diversi, tristemente diversi da tutti gli altri in tutto il resto del mondo, non gli striscioni dell'Olimpico, secondo me, in Lazio-Inter, ma anche questo è un altro discorso collaterale che mi piacerebbe sviluppare poi con voi. Questo ci rende realmente diversi, Del Piero da una parte, Morrone dall'altra, devono andare a parlare con i tifosi, fate i bravi, eccetera. La partita resta ferma 10 minuti e questo comporta un ritardo anche nell'inizio della ripresa delle partite correlate a questa, da Bologna-Catania a tutte le altre che erano interessate, coinvolte in questa sfida. Comunque la Juventus alla fine perde 3-2, Juventus che è matematicamente settima, il Napoli è sesto invece dopo aver battuto 2-0 l'Atalanta ed averla condannata alla Serie B. Questi verdetti, doppietta di Quagliarella, Atalanta matematicamente in B. C'è l'1-1 già scritto, mi pare, basta parlare con i bookmaker, no? Già scritto in partenza tra Bologna e Catania, che a quotazione di questa partita avevano sul pareggio, era stata sospesa. Di Vaio e il solito Maxi Lopez per il pareggio catanese, e poi la Lazio che vince 2-1 a Livorno e timbra il cartellino della salvezza come ampiamente previsto, segnano Rocchi, dopo il pareggio di Lucarelli segna Brocchi e la Lazio vince 2-1 a Livorno. Per il resto una bella raffica di partite inutili, come Fiorentina-Siena che finisce 1-1, Vergassola e Marchionni, come Udinese-Bari, sagra del gol, doppietta di Di Natale per l'Udinese, segna anche Pepe, per il Bari Barreto, Coman e Almiron. Bella la festa per il 100° gol in Serie A di Totò Di Natale, che viene incoronato sul campo, poi farà anche il numero 101 per non farsi mancare niente, 28 le sue reti in campionato. Questo ciò che è successo nel pomeriggio calcistico. Adesso ci fermiamo un attimo per il traffico, poi magari cominciamo subito a parlarne insieme. 800 24 00 24, il numero verde. Strade in diretta. A causa di un incidente ci sono code di 2 chilometri sull'autosole tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Per un altro incidente sempre sulla A1, code tra Firenze Sud e Firenze Certosa verso Bologna. Per traffico intenso si viaggia in coda sulla A10 Genova Ventimiglia verso Genova, tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori, e sul tratto urbano della A4 tra Pero e Cormano verso Brescia. E ancora code per traffico intenso sulla A9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera, tra Como Monte Olimpino e la dogana di Brogeda. Strade in diretta torna tra mezz'ora. Tempo di sport. Intanto ci sono diversi messaggi, ad esempio c'è chi scrive, e non ha torto, chissà perché ogni volta che guardo una partita di fine stagione in Serie A tra una squadra con un obiettivo e l'altra no, mi sembra di sapere già il risultato, perché di fatto è così, al di là delle questioni di campanile. C'è anche chi scrive, Di Natale è l'unico che ci può salvare i mondiali, poiché resteranno a casa Barotelli, Cassano, Miccoli e aggiungo io pare anche Totti, speriamo poi a Quinta, scrive l'ascoltatore, che fa riferimento anche a Cannavaro, che dà certamente meno garanzie che non Totò Di Natale. In attesa dei vostri pareri, delle vostre opinioni telefoniche, io voglio fare due chiacchiere con Guglielmo Timpano dall'Olimpico di Roma, con Totti che spegne la festa dell'Inter, e questa non è male. Ciao Guglielmo. È vero Carlo, hai perfettamente ragione, e la segna è sul più bello, perché l'Inter poi nel secondo tempo è andata sul 4-1 e notizie riecheggiavano ovviamente anche attraverso i maxi schermi dello stadio, e la Roma al 27° minuto di gioco, dunque praticamente alla mezz'ora del secondo tempo, stava perdendo 1-0, aveva segnato su un calcio di punizione di seconda Lazzari con un bel fendente alla sinistra di Giulio Sergio, e poi è arrivato Francesco Totti che proprio un paio di minuti prima di segnare il gol dell'1-1 si era dimorato un gol che credo Totti non abbia mai sbagliato, sì, nella sua carriera all'interno dell'area piccola, confortami. Nella disamina credo che sia stato 2 metri dalla porta, ha cercato uno scavetto, come si dice in gergo, ma la palla alta sopra la traversa, sfidando le leggi della fisica, ecco, sì, sembrava... Sì. La porta stregata, no, guarda, Totti e Jeddah sull'altro fronte pochi minuti prima hanno sbagliato i due gol più facili della giornata, non c'è dubbio su questo, ma Totti non aveva giocato una gran partita fin lì, tutt'altro, Guglielmo. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, sottotono se non per il palo che aveva colpito dopo 5 minuti di partita andando a incrociare alla destra dell'estremo difensore Marchetti del Cagliari. Penso che tante volte il calcio ci porti anche magari a giudizi affrettati e magari fortemente condizionati dalla nostra passione calcistica. Mi spiego, quando vedi, e io penso a un osservatore esterno, il gol che si divora Jeddah davanti alla porta, pensi, vabbè, allora non voleva segnare. Poi però quando lo stesso gol se lo divora Francesco Totti, dici, allora è possibile che questo accada? Io non lo so, poi per la dietrologia c'è sempre spazio, però i due gol sono clamorosi. Due gol davvero clamorosi. Stai lì, Guglielmo, perché sentiamo insieme a Zaccheroni, perché la Juventus, insomma, è tutto l'anno che diamo, che molti ascoltatori, molti juventini dicono colpa della dirigenza, tutta colpa loro, non hanno lavorato bene. Però la Juventus chiude in modo molto poco dignitoso, i giocatori della Juventus chiudono in modo molto poco dignitoso questa stagione a Torino. Zaccheroni con Sky. Siamo stati in partita finché non c'è stata la sospensione per le intemperanze delle tifoserie, dopodiché dopo quella pausa siamo ripartiti, è ripartita la partita, è ripartito il Parma, ma non siamo ripartiti noi, e quindi partita da dimenticare. Ecco, peraltro, a proposito di queste intemperanze, per definirle così, come scusa, Federico, riassumo per chi non ha visto la partita, sì. Cosa è successo? Sì, vi riassumo anch'io. Bene, la Juventus è così, è davvero una squadra con i nervi di cristallo, oltretutto. Cosa è successo? Ci sono state delle intemperanze, appunto, tra tifosi, ma ve l'ho detto prima, no? Che hanno portato ad una interruzione di questa partita, rimasta ferma per 7-8 minuti. Del Piero è andato, ma chissà poi perché il capitano deve andare, questi devono essere presi per le orecchie e cacciati fuori dallo stadio, oppure come fanno in Inghilterra nelle gabbie che stanno dentro lo stadio, no? nelle celle che sono costruite dentro lo stadio. Invece no, i capitani vanno a parlare con questi, Del Piero da una parte, Morrone dall'altra. Non mi interessa nemmeno poi tanto sapere quale fosse l'oggetto del contendere, l'oggetto di queste intemperanze. E questo siparietto dura per appunto una decina di minuti, quindi vedo petardi che esplodono di qua e di là, e poi si ricomincia a giocare. Zaccheroni dice la Juventus, il Parma ha ripreso a giocare, la Juventus no. Bah, sentiamo cosa dicono a Sky. Credo che sia dipeso da questo, sicuramente, come ti ho detto prima nel collegamento precedente, prima delle partite, guardando la presentazione delle partite in calendario, te l'avevo detto, troppe stadi semivuoti e con grande tensione, molti agenti, non va bene, non va bene. Ecco, però poi abbiamo avuto un episodio simile. Voglio andare invece da Zamparini, perché lì, scusami, soltanto... Federico, un attimo, scusa. No, perché... preciso soltanto che sono stati numerosi petardi e non solo dei fumaci, cioè numerosi e pericolosi petardi. Vabbè. Ecco, petardi che non dovrebbero entrare, in teoria, allo stadio, ci dovrebbe essere invece, il controllo. Invece in Italia allo stadio non entrano le persone, perché come sapete, e vi ho detto prima, vi ho ricordato prima, a Genova oggi lo stadio era chiuso. Curioso di sapere anche cosa ne pensa Zamparini, che si è presentato in occhiali scuri davanti alle telecamere di Sky. Sentiamo Zamparini. È stato un bel pari, la porta era troppo importante per pretendere una bella partita. Secondo me il pari è giusto, però ci tiene in corsa. Io sono convinto che la mia buona stella verrà domenica prossima, dove la Sampdoria pareggerà con Napoli, noi vinceremo con l'Atalanta e andremo in Champions. Che ex ha messo gli occhiali scuri. E quindi fa il pronostico per domenica prossima. La vedo dura che la Sampdoria regali la Champions League con un Napoli che di fatto non ha davvero più nulla da chiedere alla stagione, perché la Juventus ormai è dietro in maniera definitiva, e dunque la Juventus farà il preliminare di Europa League, il Napoli sesto invece no. Torniamo invece all'Olimpico. Allora, Guglielmo, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti ai due gol clamorosamente divorati nel secondo tempo da Jeddah e da Francesco Totti, alla facile dietrologia che si può fare sull'errore di Jeddah, ma poi il pareggio delle circostanze clamorose di Francesco Totti forse strozzerà in gola qualsiasi urlo di rivolta da parte magari dei sostenitori dell'Inter. Il 4-1 che stava maturando dell'Inter su il Chievo e il risultato di svantaggio che maturava qui all'Olimpico sembravano aver chiuso il discorso scudetto con una giornata d'anticipo. Io credo, Carlo, che la più grande vittoria della Roma di Claudio Ranieri sia stata nel recuperare i 14 punti che la separavano dall'Inter a un certo momento della stagione, sia stata il costringere l'Inter, finalista di Champions League, a dover giocare, certo, fino all'ultimo, una partita vera contro il Siena, nonostante il Siena sia retrocesso. Sappiamo che ci tiene mezza Roma, che è tifoso della compagine giallorossa, a che la sua squadra figuri bene, e deve giocarsela, deve vincere l'ultima partita per essere campione d'Italia. Certamente, fino a differenza del Bayern Monaco, che invece avrà due settimane per preparare la finale di Champions League. L'Inter dovrà andare a giocare una partita vera. L'atteggiamento del Siena, insomma, se ne è molto parlato in questi giorni, ne ha parlato, come sapete, anche Mourinho, con i toni che conoscete bene. Insomma, ditemi pure la vostra, se avete voglia. 800 24 00 24 è il numero verde. Prima di salutare Guglielmo Timpano dall'Olimpico, appunto l'Olimpico che, insomma, oggi vestito con la maglietta numero 10 di Francesco Totti. Come si può spiegare, Guglielmo? È stato un gesto questo, Carlo, che per certi versi è stato anche frainteso fuori dalle mura di Trigoria, fuori dal grande raccordo anulare. E quindi la spiegazione è molto semplice. Nessuno qui a Roma, se non pochi, che però credo che abbiano poco a che fare con la tifoseria e poco a che fare anche con la comunicazione, quella giusta, che se ne dica esiste anche nella capitale, pochi davvero hanno giustificato il gesto di Francesco Totti. Non c'è che dire, ha sbagliato Francesco Totti, e ha sbagliato ed è stato criticato, ha pagato, è stato espulso e pagherà con le giornate di squalifica. La presenza e l'essere presenti quest'oggi da parte di, credo, almeno 20.000 tifosi sui 50.000 dello stadio con la maglia di Francesco Totti significa semplicemente cercare di andare contro il dagli all'untore che a livello di comunicazione è partito da tutta Italia. Sì. Un dagli all'untore che ha fatto di Totti un po' il paradigma di ogni male. E se è vero che il fallo di Totti era decisamente brutto, ai tifosi della Roma è sembrato eccessivo la critica, a volte pretestuosa, nei confronti del capitano giallorosso. Sì. Ecco perché i tifosi della Roma si sono messi la maglietta di Totti, non certo per dire Totti hai fatto bene a prendere Balotelli, o come si legge su Facebook o devi prendere meglio, cioè sono cose che non appartengono a questa cultura. No, sono d'accordo, però insomma, il perdonare sempre tutto e il giustificare sempre e in ogni circostanza, quando di giustificazioni in realtà non ce n'è mezza, in tutta onestà, mi sembra sbagliato, insomma, ma questa è una mia idea, mi sembra sbagliato giustificare. Va bene, grande giocatore, la nostra bandiera, ha fatto una mi vengono solo parolacce in questo momento, una grande stupidaggine che non ammette nessun tipo di giustificazione. Anche il richiamo di Ranieri al pubblico, all'abbraccio del capitano, l'ho trovato personalmente un po' discutibile, ma ditemi pure la vostra. Queste sono solo mie idee. 800 24 00 24, il numero verde. Io ringrazio Guglielmo Timpano dall'Olimpico e vado di corsa a Palermo da Giovanni Di Marco. Buonasera Giovanni. Ciao, buonasera Carlo. Dunque, Zamparini, abbiamo sentito poco fa, ha parlato di partita troppo importante per essere anche bella, troppo importante per essere decisiva in senso assoluto, in qualche maniera. In realtà questo 1-1 è decisivo, sì, ma più per la Sampdoria che per il Palermo. Beh, su questo non c'è dubbio. Zamparini ha anche detto in Champions andrà il Palermo. Ha detto noi domenica vinceremo a Bergamo e la Samp verrà fermata dal Napoli. Siccome negli scontri diretti in questo momento Palermo e Samp sono esattamente alla pari, ma il Palermo ha una migliore differenza reti assoluta, in caso di arrivo a pari punti in effetti andrebbe il Palermo. Zamparini di ottimo umore, io che lo conosco un po' vi posso dire, insomma, che probabilmente ha visto l'ambiente un po' abbattuto, allora sta cercando di tirare sul morale ai suoi ragazzi, anche perché crede evidentemente, insomma, che il Napoli andrà a giocarsi la sua partita a Genova. Detto ciò, ti posso dire, insomma, che scendendo le scale per raggiungere la sala stampa, i tifosi commentavano due le cose che sottolineavano, al di là di questa partita, la sconfitta interna della Juve col Parma, che ha un senso per il Palermo, perché se la Juve stava dietro al Napoli quindi metteva a rischio il sesto posto del Napoli, il Napoli avrebbe avuto sicuramente un motivo in più per fare il risultato a Genova, non c'è dubbio. Invece in questo momento è sicuro del sesto posto. E l'altro, più di un tifoso, pensa ancora, continua a pensare con rammarico a quel 2-2 di Genova contro il Genoa, con quel rigore al 98esimo e con le polemiche, insomma, che ci sono state, e con quei due punti in più in questo momento, ovviamente. Ma sai, i pensieri in questo momento possono andare in un sacco di direzioni, ma per tutti, dall'Inter in giù, ognuno ha i suoi motivi di rammarico, ognuno ha i suoi motivi di rivincita, ognuno ha i suoi motivi di lamentela nei confronti degli arbitri. Gli episodi sono un sacco, anche la Sampdoria certamente avrebbe i suoi. È indubbio il fatto che non era, diciamo così, ma vai a vedere tutto l'andamento del campionato e dici però se non beccavo il gol all'ultimo secondo, però se l'arbitro fischiava o non fischiava, è chiaro che è così. Ma il Palermo che partita ha giocato, Giovanni? La partita non è stata assolutamente bella, ha ragione forse Zamparini quando dice troppo importante. Il Palermo probabilmente ha sentito la tensione, la stessa che dura da una settimana intera, per cui non è stato il solito Palermo spumeggiante e brillante in casa. Ha fatto la partita, ha cercato di farla, la Santa ha giocato in contropiede, soprattutto nel primo tempo, pochissime occasioni da gol. Il vantaggio è arrivato con Pastini sul calcio di rigore per la Samp, Samp che per 15 minuti è stata in Champions, perché in caso di vittoria avrebbe potuto festeggiare già oggi. Poi c'è stata un'invenzione di Miccoli, che è andato via in mezzo a due avversari, si è procurato il calcio di rigore, ha messo a segno il gol numero 19. Miccoli che è rimasto 10 minuti in campo zoppicante, da questo punto di vista insomma davvero eroico, e ha rischiato di fare un altro gol, ha rischiato di fare un altro gol, grande parata di Storari su un sinistro di Miccoli. Ecco, proprio ti stavo poi raccontando, non lo definirei forcing perché la Santa ha tenuto sempre molto bene, però due occasioni molto nitide per il Palermo. Ce n'è stata una che francamente ti dico, Carlo, io non ho ancora capito se sul tiro di Hernandez respinto sulla testa di Buden, che ha tirato fuori da due metri, c'era la bandierina alzata oppure no. Ancora questa cosa non mi è chiara, perché non ho avuto modo di rivedere. Sicuramente Buden ha sbagliato un gol clamoroso, non so però se era fuori gioco. E poi c'è stata anche qualche protesta, soprattutto da parte del pubblico, nei confronti di Rosetti per un fuorigioco fischiato da Hernandez, che pare insomma fosse molto dubbio. Alla fine ti dico, la cosa più bella, applausi per tutti i tifosi palermitani, erano 35.000 soddisfatti, hanno applaudito il Palermo, la Samp, tutti quelli che erano in campo, e questa è ovviamente è l'immagine più bella forse di questa domenica di calcio qui allo stadio. Questo certamente, ma è da applausi tutta intera la stagione della Sampdoria e del Palermo, a prescindere da chi farà la Champions League l'anno prossimo, chi no, fa una certa differenza naturalmente, però la stagione è stata straordinaria di queste due squadre. Io ringrazio Giovanni Di Marco, mi sembra stia parlando di Carlo, allenatore del Chievo da San Siro. Noi mancavano molti giocatori, soprattutto difensori centrali, però sono contento di come hanno giocato, cioè di come hanno assunto di fuori sia Scardina, che ha fatto anche l'esordio, ha fatto una grande gara, ha fatto forse anche gol perché la palla l'ha attaccata lui. Che dire, l'Inter in questo momento qui è forte e sono convintissimo che si giocherà tutte queste a Siena e poi Barcellona, penso che ci siano queste due finali nel migliore dei modi, e noi cercheremo di fare in modo di finire un campionato come abbiamo fatto oggi, cercando di lottare fino al 95esimo a provarci. Fabio, ci fermiamo un attimo, poi torniamo e cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, pausa. Radio 24 presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Un regista dallo sguardo ironico e poetico, visionario e surreale. Un compositore colto e travolgente che sembra scrivere musica nata apposta per quelle immagini. L'incrocio delle loro vite li porterà all'apice del successo, al ritmo di incandescenti ballate gitane. Emir Kusturica e Goran Bregovic. Domani a Destini incrociati. Destini incrociati. Tutti i giorni alle 15 e alle 23 su Radio 24. prendi 5 cose: la solidarietà, l'amore, l'impegno, la cura, l'eubiosia. Ora moltiplicale per 1000. Avrai ottenuto 20 ospedali a domicilio che ogni giorno assistono gratuitamente in tutta Italia 3000 sofferenti di tumore in fase avanzata. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Antitalia Onlus. Nella dichiarazione dei redditi scrivi 0122 96 50 377. Grazie. www.ant.it 051 71 90 111. L'energia che consumi può consumare l'ambiente. E allora che fai? Non guardi più la TV e ti fai raccontare il film da un amico? È presente la corazzata russa Potionkin, no? Siamo nel giugno del... è giugno. Si ribella, la corazzata Potionkin si ribella ai superiori, no? Però uno, durante la rivolta, uno dei marinai, no? È morto. Perché invece allora... non scegli Sorgenia, che è il primo produttore privato italiano di energia solare? Pensaci, in 500.000 ci hanno già pensato. Sorgenia, l'energia sensibile. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero al centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. The Chieftains con Ray Cooter. San Patrizio. I Chieftains raccontano in musica una grande storia di coraggio in San Patrizio. San Patrizio, un album da oggi nei migliori negozi di dischi. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani tempo ancora soleggiato sulle regioni meridionali con clima mite, mentre abbiamo molte nuvole al nord e sulle regioni centrali e in Sardegna, con qualche pioggia generalmente non di forte intensità e sparsa su Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Levante Ligure, tutte le regioni nord-est. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio anche in Toscana, Umbria, Marche e nord del Lazio. Le temperature, nonostante il maltempo, sono in salita anche sulle regioni centrali tirreniche in Lombardia. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E per il meteo è tutto. Dunque, Roberto Bolle è... come posso dire? È un ballerino. Cioè, no, non solo. È un atleta, ma anche un artista, un attore. È difficile spiegare un talento, perché definirlo è limitarlo. Per questo è nato TNT, il Festival dei Giovani Talenti. Segnalaci una persona sotto i 35 anni che giudichi un talento. E se avrai ragione, tutti potranno conoscerlo a Roma dal 17 al 21 novembre 2010. Vai su festivaltnt.it e partecipa anche tu. Metti in mostra il tuo talento. Un evento del Ministro della Gioventù e dell'Agenzia Nazionale Giovani. Sono finito in cantina, un divano d'epoca come me. All'improvviso sono diventato scomodo e mi hanno fatto sgombrare. Ma io ho la pellaccia dura. Io vengo dagli anni 70 e ne ho sostenute di conversazioni che voi... Non lascio il posto così, per un climatizzatore di ultima generazione. Ok, sarà anche bello, ma non ha spessore. È difficile reggere il confronto con il puro design del climatizzatore Daikin Emura. Essenziale, tecnologico, ultrapiatto. Daikin Emura, un pezzo da collezione. Bobby McFerrin, Vocabularies, il ritorno del funambolo della voce. Vocabularies di Bobby McFerrin. In compact disc, nei migliori negozi. Pronto, pronto, sono l'antropologo Erminio Balladori. Sono stato rapito dalla tribù Linear, ma niente paura, mi trattano benissimo. Di più, mi rispettano. La tribù Linear ha un vero culto del rispetto. Rispetto dei tempi di liquidazione, rispetto tra assicurati e assicuratori, rispetto anche del denaro. Posso risparmiare fino al 40% sull'RC Auto. Capito perché mi sono fatto rapire da Linear? Chiama l'800-112-233. Fonte libretto rosso 4 ruote 2009. A tempo di sport. Parlando Leonardo con Sky. sono molto tendente all'attacco e alla cercare, sinceramente abbiamo pensato al contropiedi e abbiamo pensato un po' a dare il sostegno a centrocampo con Gattuso e Flamini e Pirlo nella sua posizione, girando un po' perché lui aveva un po' più di libertà in fase di possesso palla, era quella l'idea, diciamo, per questa partita. Vabbè, ha parlato a lungo Leonardo, non ha cercato troppe scuse per una prova molto opaca del Milan, se non il fatto che insomma questo campo vuoto, questo stadio vuoto, clima surreale eccetera, però sono giustificazioni marginali, perché il clima surreale c'era forse a maggior ragione per il Genoa. Non ha cercato scuse, non ha detto nulla di nulla di nulla sul suo futuro. C'è la partita con la Juventus la settimana prossima, credo che 30 secondi dopo la fine della partita con la Juventus, inutile per entrambe peraltro, annuncerà il suo addio. Sentiamo invece Ranieri con Sky, poi ascoltatori, ce ne sono già tanti in linea, state lì. Okay. È stratosferico, io l'ho sempre detto, se siamo a questo punto è perché noi abbiamo fatto un campionato quasi perfetto e l'Inter ha avuto forse anche l'opportunità, la possibilità di rallentare perché aveva molti punti di vantaggio. Per cui noi ci dobbiamo provare proprio per tutti i nostri tifosi. Nella settimana più amara, più complicata. Scusa un attimo, Angelo, voglio chiedere. Scusami, Angelo, un secondo. Scusate un attimo, volevo chiedere a Cambiasso se si è sentito campione d'Italia. Siamo Cambiasso. Beh, è stato campione d'Italia per 50 minuti, di fatto. Si sapeva che la Roma era sotto col Cagliari. No, veramente per niente. Sappiamo benissimo come questa storia del calcio. Sappiamo, ci sono tante esperienze di partite che cambiano all'ultimo minuto, quindi sicuramente la gente ha esploso con il gol del Cagliari, ma noi sapevamo che dovevamo stare calmi e pensare alle nostre partite. Torniamo a Roma con Ranieri, Angelo. Per capire, Fabio, da lui se si aspettava una reazione del genere da parte di Francesco Totti dopo una settimana così complicata e amara per lui. Me l'auguravo per noi, me l'auguravo proprio per il capitano. Avevamo parlato, gli ho detto fai divertire il pubblico e fai parlare di te sul campo per quello che sai fare, gol e giocate, e così è stato, per cui sono molto contento di come ha risposto sul campo. Quello che dico sempre, noi dobbiamo parlare poco, rispettare il prossimo e cercare di fare del nostro meglio sul campo. Sì, che film metti su per preparare la partita, film. Claudio, di domenica prossima? Una battuta. Metto Paperino. Ci sei rimasto male per la risposta di Mourinho? No, anche perché evidentemente le informazioni che gli arrivano non sono esatte, primo. E poi non resto male perché io sono abituato a rispettare me stesso e gli altri, per cui... Io ho questa dote, forse qualcun altro non ce l'ha. Io rispetto sempre tutti, lascio parlare. Non mi piace rispondere, dopo mi sembrano come due galletti che si vogliono beccare e vogliono imporre la loro leadership. A me, io lo rispetto, è un grande tecnico, un grande motivatore. E lì mi fermo. Continuo a pensare che non... Insomma, non ci sia poi tutto questo rispetto nella totale assoluzione, nella benedizione di tutto il popolo romanista data a Francesco Totti. Non trovo sia in linea con queste parole. Vabbè, ha fatto una stupidata, una ragazzata, però è il capitano. Stringiamoci intorno al capitano tutti quanti insieme. Così, e cosa volete che sia? Un gesto di rabbia, mi sembra che farla passare così facile, così liscia, insomma non sia poi in linea con queste belle parole di Ranieri, non so. È sempre una mia impressione, vorrei condividerla con voi. Davide, provincia di Frosinone, poi Luca da Milano, Francesco da Caserta, Salvatore da Milano e tutti gli altri. Davide. Buonasera signor Genta. Salve. Niente, io volevo fare alcune considerazioni riguardo il campionato italiano, che secondo me, al di là di quanto troppo spesso venga vituperato, secondo me è stato molto bello, più che cambiato direi proprio il calcio italiano di per sé, molto bello e anche molto equiperato nei livelli generali, nel senso partite sempre tirate, equilibrate, fino all'ultimo. E sì. So che lei dirà ovviamente che secondo lei il livello generale è troppo basso, ma io non sono d'accordo con lei comunque. Sì, appunto, sì. Ha già anticipato la risposta, cioè livellato verso l'alto o verso il basso secondo lei? Secondo me livellato mediamente anche verso l'alto. Lei consideri che comunque l'Inter, che in teoria si accinge a vincere lo scudetto, ogni partita deve sudarsela, e consideri che comunque sia, diciamo, fra 20 giorni circa si giocherà la finale di Coppa Campioni, sì. E ha eliminato squadre che sono il meglio del calcio spagnolo, sì, sì, indubbiamente. Mondiale forse, più che spagnolo e inglese, quindi... Non lo so, Davide, io mi annoio abbastanza normalmente la domenica pomeriggio, le dico la verità. Mi annoio abbastanza, tolti anticipi e posticipi che sono la parte migliore, no? La domenica pomeriggio nel vedere, ma dal punto di vista, non riuscendo a guardarle proprio con l'occhio del tifoso, nel guardare i confronti di metà classifica, io un po' mi annoio dal punto di vista della qualità del gioco. E lei consideri anche riguardo appunto il livello medio, faccio non so, una statistica, se c'è, non so, di quante partite sono finite oltre il 4, oltre i 4 gol di scarto, sì. Di scarto. Sì, sì, no, e questo per me è un buon indice che non so, che secondo me sì, dico, sul fatto che le squadre italiane sono molto ben preparate dal punto di vista tattico e credo anche fisico e atletico. Questo sì, però dal punto di vista, ripeto, della qualità del gioco, il campionato italiano, io normalmente la domenica pomeriggio, ripeto, mi annoio abbastanza. Poi è questione anche di gusti e di punti di vista. Io comunque la ringrazio. 800 24 00 24, vi ricordo, numero verde. Poi ho tutta l'intenzione di parlarvi anche con i giusti tempi della Formula 1, della vittoria di Webber, magnifico secondo posto di Alonso. È finita da poco la tappa, la prima in linea del Giro d'Italia, ha vinto l'americano Tyler Farrar, velocista, nella tappa Amsterdam-Utrecht con Cade Evans che è già in maglia rosa. Di tutto questo parleremo dopo. Dopo parleremo anche di un altro allenatore di cui ho una stima enorme e per cui faccio un tifo sfegatato dall'inizio della stagione, dichiarato, Carletto Ancelotti, che è in campo con i successi contro il Wigan. Basta vincere per vincere il titolo, per vincere la Premier League, e sta vincendo il Chelsea 2-0, poi ci colleghiamo anche con Stamford Bridge. Ancora una battuta di Ranieri e poi il traffico e poi Luca da Milano, Francesco e Salvatore. E per il Cagliari era più facile contrastarci, avevamo bisogno di un pochettino di più di corsa senza palla, per cui quello che ho cercato di fare è togliere appunto Luca che stava lì. A me serviva giocatori che riuscissero ad aprire la difesa del Cagliari, per questo ho messo prima Taddei, poi Cerci e poi Battista. Grazie. Questo è Claudio Ranieri, traffico. Pubblicità. Il conto di che banca? Il conto di che banca? Un euro al mese e non hai mai sorprese. Con un euro al mese si può gioire, oh evviva, evviva. E in tutto il mondo puoi prelevare. Il conto corrente di che banca ha un canone di un euro al mese, senza sorprese. Per i fogli informativi 848-444-488 o chebanca.it. Che banca? Gruppo Mediobanca. Strade in diretta. A causa di un tamponamento tra più autovetture avvenuto in galleria sull'Autosole ci sono code di 6 km tra Incisa e Firenze Certosa in direzione Bologna. Sempre sulla A1 nella stessa direzione code di 2 km tra Pian del Voglio e Rioveggio per un altro incidente. Per traffico intenso code sulla A10 Genova Ventimiglia verso Genova tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori. E sulla A9 Lainate Como Chiasso in direzione Lainate tra Saronno e il bivio per la A8. Vi ricordiamo che fino alle 22 per agevolare i rientri dal fine settimana i mezzi pesanti non potranno circolare sull'intera rete. Strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Luca, buonasera. Buonasera. Io volevo parlare un attimo delle tensioni, dei fenomeni di violenza che sono legati. E ho l'impressione io che non si senta molto bene. Come? No, ho l'impressione io che non si senta molto bene il telefono. Provi un po'. Mi sente? Proviamo. No, volevo dire sul fenomeno violenza e tensioni che credo che finché le società continuano ad affermare che la responsabilità di fare delle regole per far funzionare le cose diversamente spetti a qualcun altro, non si arriverà mai a nulla. Sono le società che in primis devono far comportare i giocatori in campo in maniera molto più dignitosa di quanto non avvenga normalmente oggi. Sì, però in campo diventa difficile, più che altro sono le società che dovrebbero assumersi le loro responsabilità nei confronti delle loro tifoserie. Ho sentito la presidentessa Sensi, ho letto che ha fatto una telefonata al tifoso che era stato accoltellato dopo il derby dicendo ti aspetta Trigoria. Sì. Il tifoso del quale ho letto un'intervista dicendo che le coltellate ero state fanno parte del gioco. Sì, sì, sì. Cioè, allora, no, ma ha ragione da vendere, Luca. Così... Ha ragione da vendere, Luca, ha ragione da vendere, guardi, ha ragione da vendere, al di là del fatto che società fa costringere in qualche modo indurre i calciatori a comportarsi in altro modo, questo è difficile, no? Perché perché quando si gioca a pallone è chiaro che bisogna in valore assoluto tenere i nervi a posto se possibile, però questo mi sembra un po' forzato, ma tutto il resto non fa una piega, nel senso sono le società che devono prendere, la parola giusta è responsabilità, sono le società che devono prendersi le loro responsabilità di fronte alle loro tifoserie e alle proprie tifoserie e ai comportamenti delle proprie tifoserie, questo non c'è dubbio. Poi abbiamo visto oggi, abbiamo avuto la prova di quanto la tessera del tifoso funzioni in maniera ineccepibile, no? L'abbiamo avuta a Genova questa prova, quindi se aspettiamo regole, regolamenti e tessere stiamo freschi. Francesco Caserta. Buonasera dottor Genta. Buonasera. Sono tifoso della Juve, ahimè. Purtroppo la stagione, vabbè, è stata ovviamente negativa. Senta, se mi chiama per dire che la colpa è della dirigenza, passiamo subito oltre, perché perché sono d'accordo che la dirigenza juventina ha fatto tantissimi errori, una marea, però un po' di dignità nel chiudere la stagione si può chiedere ai giocatori. Ma infatti la mia osservazione era questa, cioè si è parlato tanto di allenatori, dirigenza, scelte sbagliate, di nuovo gli infortuni. Ma secondo me il vero problema della Juve è proprio che si è chiuso con i giocatori più importanti, no? Quelli che venivano chiamati i 5-6 samurai, si è chiuso proprio un ciclo, perché voglio dire, se vediamo il rendimento dei vari Buffon, Zebina, Cannavaro, Trezeguet, Camoranesi, eccetera, eccetera. Del Piero, che quest'anno è stato comunque a mezzo servizio anche a causa dei... Sì, fa niente, Del Piero. Esatto. Il problema secondo me è stato proprio questo, cioè non è stato un problema di allenatori, di infortuni, certo sicuramente è un problema di nuovo banalizzato, perché se ricordo bene i numeri 140 infortuni in 2 anni è una cifra penso che nessun'altra società di calcio abbia registrato. E la mia preoccupazione è anche un'altra, anche in chiave nazionale, perché voglio dire, è giustificata la nazionale che ha fatto bene ai mondiali, senza la nazionale che ha avuto un blocco di una della Juve. Certamente preoccupazioni in prospettiva nazionale sono ampiamente giustificate, perché l'idea di andare con Cannavaro a reggere la difesa, Chiellini è chiaramente il miglior difensore che ha la Juventus, uno dei migliori nel panorama internazionale, però anche lui ha avuto una stagione estremamente travagliata, quindi le preoccupazioni in chiave nazionale sono tutte giustificate ed è anche condivisibile quanto lei dice. Se tutti sappiamo che un ciclo dei samurai o di come li vuole chiamare è finito, del Piero compreso, che ne dicano molti tifosi juventini, allora è meglio cambiare. Bisogna voltare pagina. Parliamo di Buffon, su Buffon parliamone, perché io uno come Buffon magari me lo tengo anche lì. Gli altri hanno dato quello che hanno dato, applausi, strette di mano, riconoscimenti, quello che volete, però cambiamo pagina tutti insieme, perché sennò rimani prigioniero di una catena molto lunga, no? Che si ancora profondamente nel passato. Grazie. Salvatore Milano, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io chiamo per intervenire su questa sua domanda sull'atteggiamento che i tifosi romanisti hanno verso Totti, il perdono, la lavagnetta, tutto questo. Io sono di Milano, vivo a Roma però, e mi capita di essere in una situazione paradossale. Non posso godere, io sono un tifoso interista, non posso godere a fondo della mia passione, della mia tifo per l'Inter, perché devo sempre stare attento a misurare lo sberleffo, lo sfottò, perché mi rendo conto che a Roma fra i tifosi, gli appassionati, i tifosi, lo sfottò e lo sberleffo è unilaterale, lo possono fare solo loro. Lo possono fare sempre solo loro. Per il resto è lagna, lamento, piagnisteo. Sì, sì. Ed è una cosa veramente asfissiante. Ma questo ora, non lo so. Per quanto riguarda il discorso appunto dei tifosi milanisti, questa difesa oltranza di Air Capitano, lo chiamano proprio così, Air Capitano, è una cosa... Che è una cosa che ha rappresentato anche il limite forse maggiore di Francesco Totti, che magari che non avesse avuto questa coperta costante e continua, magari sarebbe diventato ancora più grande di quanto non è realisticamente stato, perché è un giocatore immenso comunque Totti. Senta, io vorrei, la ringrazio Salvatore. Non lo è stato, perché questo è anche il limite di tutta la squadra, perché nel momento in cui vanno dietro questa cosa non se ne libereranno mai. Sì. Sì, sì, no, ma è il limite di una città che imperne la stagione sui derby. Io vorrei coinvolgere in questo discorso Roberto Beccantini. Ciao Roberto, grazie. Buon pomeriggio, Carlo. Grazie. Senti, Totti che spegne la festa dell'Inter non è male, Che annacqua la festa dell'Inter non è male. Sì, infatti è stata la settimana di Totti nel male e nel bene, ecco, fra Coppa Italia e quella guerra lì di mercoledì e la partita di oggi. Da un errore clamoroso poi alla doppietta, il calcio si ciba di questi eccessi, di questi paradossi, vanno presi, anche se ho colto la coda del discorso, è chiaro che Totti a Roma è una religione, come tutte le religioni, ahimè, la storia insegna, hanno le loro guerre, sì. Guerre che lasciano sul campo dei feriti, dei prigionieri, dei morti, per fortuna solo figurati, in questo senso ci mancherebbe altro, però, sì. Insomma, oppure dei calci. Però Roberto, diciamo, io posso condividere con te una mia impressione che ho avuto oggi. Allora, quel bravissimo allenatore, quella splendida persona che è Ranieri, che dice io sono diverso, io insomma che parla molto bene, in modo molto diverso da Mourinho, ma parla molto bene, che esprime concetti molto alti. Insomma, questo aver perdonato tutti insieme Francesco Totti, il nostro capitano, e oggi stringiamoci intorno al nostro capitano, eccetera, eccetera, un po' stride, no? con queste dichiarazioni, sì, di alti stride, valori. Carlo, ma noi siamo qua, siamo nel nord, hai capito? Lui è là, è nel fuoco, in pieno fuoco. Certo, dovrebbe. Io sogno di essere allenatore della Roma e di dire Totti ha sbagliato e per questo lo porto in panchina anche contro il Cagliari, però dirlo da Milano è molto facile, sai? Mm-hmm. Però Ranieri di solito è così equilibrato, per cui avrà avuto i suoi motivi, sai, Carlo, ormai viviamo da anni se non da decadi nel mondo dell'immagine e l'uomo copertina ha tali e tanti privilegi nel bene e tali e tanti, diciamo così, eccessi negativi nel male, per cui la persona male fatica a orientarsi. Noi dimentichiamo ogni tanto il dovere, hai capito? Perché siamo anche noi a fomentare la tensione di queste partite. Sì. Nessun dubbio che Totti abbia sbagliato alla grande, però così è. No, ma vedi Roberto, a me insomma questo perdono così istantaneo e facile, è chiaro che tu hai ragione, no? Lui è là nel fuoco, questo è evidente. Però l'ha perdonato tutto. Io faccio sempre il discorso, paragonavo Francesco Totti ad Alessandro Del Piero. Del Piero a Torino, quando giocava al Dele Alpi, aveva 40.000 metti massimo tifosissimi. Totti ha sempre avuto 80.000 genitori. E quando tu hai in questo cambio, in questa differenza, penso che ci sia le radici questo del tottismo. Questo è perfetto, maestro. No, quindi l'unico uomo nero rimane di uno che aveva scalciato da dietro, hai capito? Sì. Perché c'è chi l'ha paragonato al caso Zidane Materazzi, a parte l'età dello scalciato, è molto inferiore a quella dello scalciante. Esatto. Zidane davanti, capito? Totti da dietro. Sì. Quindi l'unico uomo nero rimane Mourinho. No, sai, Mourinho lui gode, lui è, io lo chiamo Mussolini, lui ha capito tutto, non andrà mai via dall'Italia, non credere alle sirene del Real Madrid. Lui ha capito che siamo un paese di schiavi, ci tratta come tali, e fa benissimo dal suo punto di vista. Ha la squadra più forte, ha il potere, non è un Robin Hood, che non è che arriva all'Inter pre-Calciopoli, arriva all'Inter post-Calciopoli, che è la società più forte, più ricca, sì. E che va detto a onore di Moratti, non sbaglia più acquisti, perché una volta sbagliava anche gli acquisti, adesso non li sbaglia più, anche magari per merito e prima di Mancini, adesso di Mourinho. Senti Roberto, posso dirti un'altra? Dimmi. Gode, Cody in queste polemiche, dove è il numero uno in assoluto? Il numero uno assoluto mondiale, per distacco. Non c'è confronto con nessun altro al mondo. Roberto, posso dirti un'ultima cosa? A me è andato, anche qui è sempre una sensazione personale, però mi ha dato molto più fastidio, mi ha dato molto più fastidio quanto è successo oggi dentro lo stadio di Torino, mi ha dato molto più fastidio vedere Marassi oggi sbarrato, proibito, che non quegli striscioni o no alzati dalla curva della Lazio. Guarda, gli striscioni della Lazio non li ho presenti, perché non li ho visti. No, quelli di domenica sera, quelli di domenica scorsa. Ah, ho capito, scusa Carlo. Certo, oggi, sai, andiamo per ordine. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, i petardi e gli incidenti di Torino-Juventina sono ormai una normalità. Il campionato in questo caso finisce domenica, anzi a Torino è già finito. È una vergogna, è una barbarie, però è così. Cioè, Capello, quando disse il calcio italiano in mano agli ultra, ci siamo pensava mai nella tutti. Vita di sbagliare per difetto. Ma assolutamente, solo da noi, però i capitani vanno a parlare con questi. Esatto, Carlo. Per quanto riguarda viceversa, Marassi chiusa, se a Torino hanno vinto ancora una volta gli ultra o i sedicenti tali, a Marassi ha perso ancora una volta lo Stato, con tutto il tatto che ci vuole nel caso in cui si ricorda un evento luttuoso come quello del 1995, che ebbe come protagonista un tifoso del Genoa, Vincenzo Spagnolo, morto accoltellato per mano di un ultra milanista, con tutto il tatto, ripeto, che dobbiamo alla famiglia, alla memoria, eccetera. 15 anni dopo, se Genoa-Milan si gioca a porte chiuse, è una sconfitta dello Stato. Ripeto, Carlo, 15 anni dopo. Sì, non si può vivere in perenne stato di emergenza, con l'osservatorio, con i prefetti, con le chiusure a rate di stadi, riaperture, tessere dei tifosi, DASPO invocati per i giocatori. Ma è chiaro, Roberto, non si può vivere nell'emergenza continua. Questo calcio non può, secondo me, avere gli europei 2016, questo caso. Ma speriamo che non ce li diano mai nella vita. Io gli penso europei. Che ci dobbiamo curare prima, però a dirlo si passa per moralisti. Accetto questa condanna, per l'amor del cielo. Non ho nessun problema. Io faccio il tifo contro dichiaratamente sugli europei all'Italia 2016, nel 2020, nel 2024, quelli che volete voi. Faccio il tifo contro dichiaratamente. Roberto, è sempre un piacere enorme. Grazie. Grazie a te, Carlo. Alla prossima. Serata. Grazie a Roberto Beccantini. A tempo di sport. Un sacco di messaggi, tra l'altro 349-238-6666, poi ve ne leggo un po'. Intanto parlo volentierissimo con gli ascoltatori fino alle 19, tra poco anche un po' di Formula 1, poi un po' di ciclismo, però soprattutto calcio e soprattutto ascoltatori in questa ora, mi sembra il momento indicato. Insomma, Alessandro da Pescara, Elio da Modena, Giorgio da Asti, primi tre. Alessandro, buonasera. Buonasera, senta, io faccio una considerazione di estrema semplicità, cui vorrei il suo parere. Approfondiamo il caso Totti Balotelli. Diciamo che Balotelli avesse fatto è già tanto così, perché vuol fare anche delle ipotesi. L'avesse fatto Balotelli, ecco, esatto, anche che perché il caso del calcione proditorio, perché si è visto bene che dopo essere stato scartato da Balotelli l'ha cercato un suo compagno guardi, sul gesto è lì da vedere, no? L'ha guardato, l'ha mirato e l'ha preso da dietro. Esatto. Ma io dico, e faccio anche quest'altra considerazione, pochi hanno rilevato che dall'inizio la partita Inter-Roma è stata improntata da parte della Roma in un clima intimidatorio. Guardate cosa ha fatto Burdisso, ha fatto un buco sulla coscia di Snyder dopo un minuto di gioco, forse. Uno, lasciamo stare gli altri innumerevoli falli che si vedevano su Mutari e su altri. Sì. Mi sembra che di tutto questo tutti, politici compresi, che sono sempre pronti a mettere il cappello dove non lo devono, nessuno abbia notato questo. È una cosa vergognosa, se si tiene conto che, se non sbaglio errato, non era solo in Eurovisione la partita, ma forse anche in Mondovisione. No, ma guardi, al di là dei politici, che più stanno zitti meglio è, manca solo che parlino della durezza della partita, eccetera eccetera. Al di là di tutto questo, è vero una partita estremamente dura, è vero una partita in cui la Roma evidentemente aveva qualche o tante rivalse da prendersi nei confronti dell'Inter, era molto carica la Roma. Isolerei però il caso di Totti. La mia idea è che nella partita di Francesco Totti, in quel secondo tempo in cui Totti ha cercato più volte il contatto, il contrasto e la rissa da quel calcetto in testa a Thiago Motta, quel calcione rifilato a centrocampo con una dinamica simile a quella di Balotelli a Milito, battezzato e preso, cartellino giallo che poteva essere tranquillamente un rosso secondo me. Ebbene, in quella partita di frustrazione di Totti, credo ci fosse più uno spirito di rivalsa che uno spirito di rivalsa nei confronti dell'Inter, uno spirito di rivalsa nei confronti di chi per la prima volta in carriera lo aveva messo in discussione come giocatore, cioè il suo allenatore. Io ho avuto come la sensazione che in quell'atteggiamento di Totti, in quella pazzia finale di Totti, ci fosse molta frustrazione per l'essere finito in panchina nel derby all'intervallo. Poi la Roma ha vinto, però quindi che vuoi fa? Ranieri è andata bene in quel caso. Poi lo mette in panchina anche in finale di Coppa Italia contro l'Inter in questo momento. Credo che al di là di tutto quello che è stato detto, poi un sacco di stupidaggini da una parte e dall'altra, da quelle di Raiola le più grosse a quelle di Totti, ha offeso un popolo, una città, una squadra. Io credo che in quell'atteggiamento di Totti, in quella partita di Totti, ci fosse molta frustrazione per l'essere per la prima volta in carriera messo in discussione come giocatore, come capitano e come simbolo della Roma. Anche questa è una mia sensazione, che condivido con voi, fatene l'uso che volete. Elio da Modena, buonasera. Buonasera, io vorrei andare un po' controcorrente rispetto a questo problema. Sì. Sono d'accordo con lei sul fatto della frustrazione, sono d'accordo sul fallo bruttissimo, proprio di frustrazione, però voglio dire, alla fine Totti ha chiesto scusa. Mi faccia finire parlare. Ma sì, la faccio finire, però non ricominciamo le scuse, perché le scuse hanno le scuse, rotto le palle. Io faccio una cosa chiedo scusa. Ho capito. Vabbè. Comunque, il chiedere scusa è implicitamente un ammettere una propria colpa. Ma ci mancherebbe altro. Va bene, ma scusi, però se lei non mi fa parlare... Ma la faccio parlare, però mi dica qualcosa di interessante. Ranieri ha cominciato il suo discorso dicendo Totti ha sbagliato. I compagni di squadra giustamente hanno detto Totti ha sbagliato. Perfetto. Per questo pagherà. Allora, che vogliamo fare a questo punto? Lo vogliamo ammazzare? No, ma che ammazzare? Però magari non evitiamo di andare tutti lì oggi a fare la celebrazione di Francesco Totti con la maglietta numero 10. Ma lasci perdere i tifosi che... Non lascio perdere proprio niente. Io non lascio perdere neanche Ranieri, che fa proclami elevati con bellissimo stile e poi dice stringiamoci tutti intorno al nostro capitano. Ma come? Come? Non considera una cosa. Considero tutto. È una persona che becca... Le giuro che non sono romanista, sono un tifoso di Totti, però ma anch'io, 2000 calci a partita, guardi, 2000 provocazioni a partita. Elio, Maradona ne prendeva il triplo, basta, mi sono stufato. Maradona ne prendeva il triplo, si alzava, stringeva la mano all'avversario che aveva fatto il fallo e andava via. Maradona ne prendeva il triplo. Totti ne prende tante e al brutto vizio, io da tifoso di Totti, lo dico e l'ho sempre detto, al brutto vizio di farsi giustizia da solo. E in questo brutto vizio c'entra anche molto questo atteggiamento di eccessiva protezione che ha tutto l'ambiente, ha sempre avuto tutto l'ambiente nei suoi confronti. E ha detto perfettamente Roberto Beccantini, Totti ha 80.000 genitori a Roma. Questo è perfetto quanto ha detto Beccantini. Quindi non raccontiamoci delle favole, non tiriamo più in ballo le scuse, perché veramente sono... basta con le scuse, basta. Io faccio qualunque cosa, poi chiedo scusa a questo, a quello, pubblicamente, comunicato stampa, agenzia, basta, per favore. Traffico. Strade in diretta. Attorno a Genova sulla 12 si formano code in direzione di Genova tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 per operazioni di ripristino dopo un incidente. Sempre in Liguria per traffico intenso, incolonnamenti anche sulla A10 in direzione del capoluogo tra Arenzano e l'allacciamento per la A26 dei trafori. Molti veicoli in viaggio all'altezza di Firenze su entrambe le carreggiate dell'Autosole. In direzione di Bologna le code risentono anche di un incidente risolto tra Incisa e Firenze Certosa. Altrove proseguono gli spostamenti e i rientri del fine settimana, condizionati sempre dalle piogge al nord. Per quanto riguarda il fiume Po, ora l'acqua sta tornando ai livelli di sicurezza e dopo gli ultimi sopralluoghi è stata decisa la riapertura sulla via Emilia del ponte provvisorio sul Po a Piacenza, che era stato chiuso il 5 maggio a causa della piena del fiume. La riapertura è prevista nella mattinata di domani. Con questo è tutto, torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Lo dico a 40 minuti dalla fine della partita, 35 minuti dalla fine della partita, Carlo Ancelotti vince la Premier League, sta conducendo 4-0 sul Wigan al 58esimo di gioco e poi, ripeto, ci collegheremo con Stamford Bridge. Giorgio D'Asti, buonasera. Buonasera. Volevo fare una considerazione sulla questione di Totti e penso che per avere le idee un po' più chiare si potrebbe provare a fare una decontestualizzazione, cioè pigliamo queste due persone, togliamogli il pallone dei piedi, togliamogli la maglia e mettiamoli in mezzo a una strada, si vede un essere umano che piglia calcioni un altro essere umano. Ora, questa cosa sarebbe una cosa normalmente da denuncia, uno chiama i carabinieri e denuncia chi ha compiuto quel gesto. Sì, però è calcio, cioè, sì, come però, fa a decontestualizzare? Come fa no, a decontestualizzare questo? Il discorso è questo, sì. E sono d'accordo, posso darti del tu? Sì, certo. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che queste scuse hanno veramente sbomballato gli attributi. Sbomballato gli attributi mi sembra buona. Ecco, e tenendo presente ancora che il fatto, queste persone, questi eroi della domenica, sono poi quelli che danno l'esempio alle persone che sì, in qualche modo li hanno eletti a quel ruolo. Il fatto ma che, non devono dare l'esempio, ma no, guardi, ecco, è una distorsione. 20.000 persone che si mettono la maglia di Totti, sì, è ancora, non è un attenuante, è un aggravante. Assolutamente. Tu hai la possibilità di influenzare un numero di persone con un comportamento che non è assolutamente civile, né in un campo né fuori, per il fatto che una persona abbia un pallone nei piedi, sì, non giustifica il fatto no, di dire un'aggressione. No, Giorgio, sì, però non, io torno a ripetere, non si può decontestualizzare quell'episodio da una partita di calcio. Ci metto anche, io sono... di solito tendo, non dico a giustificare perché non è giustificare quanto è successo, però a comprendere in qualche modo il raptus agonistico, no? L'adrenalina che va al cervello, fai una cosa, non ti accorgi magari neanche di averla fatta in quel momento di estrema tensione agonistica. In questo caso è impossibile, però non si può nemmeno decontestualizzarlo e metterlo togliere il pallone e mettere quella scena in mezzo alla strada. Io mi limito a leggere un messaggio, uno dei tantissimi, è di Jacopo da Firenze, che scrive: da neutrale dico che mi dispiace per Ranieri, ma l'atteggiamento dell'Olimpico oggi manda un solo messaggio, due punti, aperte virgolette, hai fatto bene. Mi fa riflettere questo messaggio, non so voi. Mentre riflettiamo su questo, apriamo la parentesi per il Gran Premio di Spagna. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Aspetta che respiro un attimo, poi torno a parlare di Totti, di queste sì, cose. Allora, parlami invece tu di questa vittoria di Red Bull. Campionetto molto interessante, perché tieni presente che la Ferrari, che è riuscita a conquistare un buon secondo posto per merito di Alonso, ha solo 3 punti di distacco dalla McLaren. Quindi diciamo che il campionato è molto aperto. L'inizio della gara, ti dirò, non essendoci la pioggia, mi sembrava piuttosto noioso, non si aveva la sensazione che succedesse qualcosa. Weber era partito come un razzo, Vettel non era riuscito a superarlo in partenza e lo seguiva, e quindi si immaginava, come era previsto da tutti, che le Red Bull fossero così superiori che avrebbero fatto corso 6. Poi in realtà la situazione è cambiata e a un certo punto si sono cominciate a vedere delle fermate di box magari non previste, dei contatti, delle uscite di strada, eccetera. Direi che la perla è due perle in questa corsa: la gara di Alonso, che senza dubbio è stato fortunato perché si sono fermati due davanti a lui, però ha guidato la Ferrari eccezionalmente, mettendo di nuovo in crisi Massa. Qui il problema diventerà piuttosto complesso. È risolto il dualismo, sono sciolte, sono definite le gerarchie in casa Ferrari? Ecco, la seconda diciamo momento interessante è quella specie di scuola guida che si sono fatti tra loro Schumacher e Button, sì, due campioni del mondo che hanno dimostrato di essere veramente fortissimi, perché non si sono fatti scarbi particolari, e Schumi è stato capace di tenere dietro una macchina più veloce con la nuova, diciamo, con la nuova Mercedes GP, che non scintille. È ancora a livello degli altri, ma che comunque, essendo stata allungata nel passo, è più favorevole alla sua guida e a svantaggio purtroppo di Rosberg. Primi lampi di Schumi da quando è tornato. Sì, direi di sì. E adesso sai, è una corsa sfrenata, perché questi caricano tutti in macchina, vanno a Monte Carlo dove giovedì già si deve provare. Sì. Quindi, essendo stata questa la quinta gara di campionato, ma la prima in Europa, dove si sono portate molte modifiche, parecchie macchine probabilmente non hanno espresso tutto il loro potenziale. Si tratta di vedere se in questi pochi giorni riusciranno a trovare una messa a punto adatta per un circuito abbastanza tipico come quello di Monte Carlo, dove comunque tutti continuano a vedere la Red Bull favorita. Io non credo che sarà così facile. Quinto gol del Chelsea lo segna Didier Drogba, e la festa per Carlo Ancelotti è distante solo, solo pochi minuti, insomma. Mario, ti volevo far notare in chiusura una cosa. Dimmi. Allora, Red Bull fortissima, Schumacher che dà le prime scintille, Alonso che fa una gara magnifica, perché di fatto ha fatto una splendida gara, Fernando Alonso. Però il primo in classifica nel Mondiale dei Piloti è zitto zitto il solito Jenson Button. Ragazzo è abile. È bravissimo Button, è bravissimo. È bravissimo, bravissimo. Perché sono quei campioni che hanno regolarità e che quindi non scatenano l'entusiasmo delle folle. Però alla fine, quando si va soprattutto in un campionato abbastanza diciamo combattuto come questo, con i nuovi punteggi, credo che effettivamente abbia delle possibilità, non dico di vincere, perché Alonso, se la Ferrari mette a punto un po' di più l'aerodinamica, è senza dubbio anche lei una macchina di vertice, ma comunque diciamo che sarà sempre un gran protagonista. Quanto a Hamilton, che tutto sommato dovrebbe essere l'avversario più forte di tutti, è stato sfortunato, perché lì c'è stato un guasto meccanico come al solito pericoloso, insomma non gli è passato, e quindi abbiamo avuto varie fermate che non erano prevedibili prima, per cui la classifica è diventata interessante e io credo che possa continuare così. Certo, Monte Carlo sarà una corsa a sé. Certamente, come sempre capita in quella corsa così demodema, così affascinante. Grazie Mario, ci sentiamo nel prossimo weekend senza alcun dubbio. Dunque, Davide da Roma e poi vado col Giro d'Italia. Buonasera Davide. Oh, buonasera, grazie che mi dà la possibilità di intervenire, è un piacere parlare con lei. Reciproco, dica. Allora, io cercherò di riassumere in 20 secondi il mio pensiero su quello che riguarda la situazione di Francesco Totti. Allora, premesso, io sono un tifoso della Roma da quando sono nato, ma ho, pur amandolo, sempre contestato il detto "la Roma non si discute, si ama". Ecco, lei pensa un po', partendo da questo presupposto, quanto in teoria in grandi linee possa essere d'accordo con lei. Credo però che sia stata distorta un po', e credo sia l'ego mediatica, anche soprattutto romana, la situazione rispetto a quello che, se andiamo a stringere, è un terribile, orrendo, deprecabile, ma fallo di gioco. Ora, beh, io insomma, credo che di gioco magari no, ma quanto lei dice, anche Guglielmo Timpano da Roma prima lo faceva notare, io non sono a Roma, sono a Milano, non ho il polso, ma anche se lo immagino senza troppi problemi, il polso della... Ma che noi a Roma viviamo nelle moschee, no? L'imam Totti e noi siamo tutti lì, cioè, no, non è questa la situazione, voglio dire, a Roma nessuno ha condiviso o giustificato il problema, è che siccome non è magari visibile ciò che si è scatenato mediaticamente in questa settimana, probabilmente a livello di supporto hai fatto una stupidaggine, ma questo non giustifica che dobbiamo adesso esagerare dal lato opposto. No, io dico solo, non essendo a Roma e non capendo queste dinamiche, lei fa bene a farlo notare, io vivendo a Milano, c'è Jacopo che vive a Firenze, c'è chi vive in altri posti d'Italia, e allora guarda questa vicenda e la pensa magari anche come Jacopo. Le rileggo il messaggio, da neutrale dico mi dispiace per Ranieri, ma l'atteggiamento dell'Olimpico oggi manda un solo messaggio: ha fatto bene. Ma no, è questa la distorsione. distorsione, vedi Carlo? Esattamente questa. Guardi, sarà una distorsione, però la sensazione è questa qui, mi perdoni, sì, Davide. La sensazione è questa qui. Non devo difendere Francesco Totti, no, non ne ho purtroppo le stigmate, però le garantisco che è stato una segno di, siccome poi noi a Roma accettiamo tutti, accogliamo tutti e difendiamo tutti, sì, quando c'è una persona in difficoltà, al di là del gesto deprecabile di condanna che tutti hanno fatto, però tutto questo che si è scaricato dopo, secondo me un ragazzo di quel tipo là che ha fatto una fesseria enorme, e non è la prima volta, ha ragione lei, le ha sempre pagate, sempre le pagherà, ma quello di oggi non c'entra nulla con la finale di Coppa Italia. Se può essere utile questa testimonianza, bene, altrimenti non pazienza. Io ringrazio lei, ogni testimonianza è utile, certamente è più divertente quando c'è una certa distanza di vedute, perché sennò dov'è il dibattito? Scusatemi, cioè, testimonianza assolutamente utile e ben accetta, caro Davide. Allora, adesso voglio andare al Giro d'Italia. Pier Augusto Stagi, buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Giro d'Italia, andiamo in Olanda. Vi porto in Olanda. Sì. Cos'è sì, successo siamo oggi? Siamo in Olanda, intanto è uno spettacolo eccezionale perché è incredibile. Sapevamo della passione olandese, ci ricordavamo di Gröning nel 2002, ma a vedere chilometri e chilometri e chilometri di gente, tantissima gente, lungo i 220 chilometri, non è una cosa di tutti i giorni. Non so quanti spettatori sono. Diciamo che comunque l'Olanda ha veramente accolto con grande affetto la Corsa Rosa. Poi è stata una tappa caratterizzata sempre da un cielo color piombo e da una temperatura molto invernale, molto rigida, 7-8 gradi, e poi ci sono state tantissime cadute, perché le strade olandesi sono probabilmente molto adatte alle biciclette, ma da passeggio, ma non a biciclette da corsa, perché sono molto strette, con molte rotonde, con molti sparti traffico, e anche tanto nervosismo, perché come tu ben sai, la prima volata la vogliono fare un po' tutti, ci provano anche quelli che non dovrebbero stare là davanti. E diventa particolarmente rischioso. Diventa rischiosissimo, tantissime cadute, tra questi ci ha rimesso le penne anche Bradley Wiggins, la maglia rosa di ieri nel cronocrollo. Ha rimesso le penne relativamente, no? Relativamente, nel senso che ci ha lasciato per strada un po' di pelle e 37 secondi, e quindi la maglia rosa è passata sulle spalle di Cadel Evans, il campione del mondo, grande favorito di questo Giro d'Italia, col numero uno dorsale, che adesso ha un secondo di vantaggio su Farrar, che ha vinto invece la tappa, e ha vinto molto bene battendo Goss e Fabio Sabatini. Quinto Petacchi, che ha sbagliato in pratica proprio la volata, 500 metri si è fatto sorprendere, aspettava che rilanciasse l'azione al suo compagno di squadra Hondo, è rimasto imbottigliato e arrivederci. Senti, ma questa maglia rosa già sulle spalle del grande favorito, che significato ha? Poco, credo. Molto poco, perché credo che domani è altra tappa che sarà condizionatissima dal vento, anche più di oggi, perché domani è prevista una giornata migliore, più bella, e quindi di sicuro ci sarà più vento, e quindi credo che domani sarà tappa dura e difficile da controllare, ma con ogni probabilità ci sarà un'altra volata, e quindi Farrar sarà là a sprintare, e sicuramente Cadel Evans non farà nulla per trattenersela sulle spalle, perché come ha detto dopo la tappa, io voglio essere in rosa a Verona. Ci mancherebbe altro. Grazie Pier, alla prossima. Grazie a voi. Grazie per questo stagio al Giro d'Italia. Adesso dobbiamo fermarci mentre c'è il 6-0 del Chelsea sul Wigan. Adesso sono 20 minuti, abbiamo visto prima anche Abramovic esultare al quinto gol di Drogba, che aveva sfiorato una rete meravigliosa in rovesciata, grande parata del portiere sugli sviluppi dell'azione, poi ha segnato di testa. Però insomma, il senso è che sono altri 20 minuti di passerella per il titolo, il primo titolo di Carletto Ancelotti in Inghilterra, Sir Charles, eh? Cosa dite? Ci fermiamo un attimo, poi di nuovo ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde. Un po' di musica. Metti il nostro pezzo, dai. Di nuovo. Il lavoro sarà un piacere. Fino al 30 giugno, nuovo Transporter, unico della categoria con motori Euro 5, può essere vostro con finanziamento a tasso zero. TAEG massimo 7,71%. Salvo approvazione Volkswagen Bank. Fogli informativi presso i concessionari Volkswagen veicoli commerciali. Ah, oh, mi sento vuoto. Superfluo. Nessuno che mi porta un fiore, una rosa, un giglio, un tulipano. Insomma, per un vaso queste sono cose che contano. Dicevano che avevo dei colori troppo squillanti per il nuovo climatizzatore. Eh? Ah, quello è così silenzioso. Addio. È difficile reggere il confronto con il puro design del climatizzatore Daikin Emura. Essenziale, tecnologico, ultrapiatto. Daikin Emura, un pezzo da collezione. Meridiani vi racconta un Sudafrica tutto nuovo. I safari ecologici, il treno nella savana, la strada dei Big Seven, gli stadi dei mondiali, la rinascita di Soweto. In edicola c'è un Meridiani da non perdere. Quest'estate andrei volentieri in Nord America, Centro America, Sud America e in Tibet a fare alpinismo, meditazione, ma anche a ballare in discoteca a Rimini, Riccione e Milano Marittima. Con Elementare Citroën, per la prima volta puoi avere tutto. 2.000 euro di eco bonus Citroën cumulabili con l'offerta in corso su tutta la gamma monovolume Citroën. E in più, supervalutiamo il tuo usato. Scade il 31 maggio. Ti aspettiamo. L'energia che consumi può consumare l'ambiente. E allora che fai? Non usi più il rasoio elettrico e ti fai crescere la barba? Ah! A lei chi è? Fatta ad entrare in casa mia! Fuori! Tesoro, sono io! Fuori da casa mia! Aia! Fuori! Sono io! Tuo marito! Ma fai male! Perché invece non scegli Sorgenia, che continua ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili? Pensaci, in 500.000 ci hanno già pensato. Sorgenia, l'energia sensibile. The Chieftains, con Ray Cooder. San Patrizio. I Chieftains raccontano in musica una grande storia di coraggio in San Patrizio. San Patrizio, un album da oggi nei migliori negozi di dischi. Siamo l'Italia delle idee, l'Italia che non si arrende, l'Italia che ha voglia di fare. Gente seria, gente tosta. Siamo l'Italia che reagisce. Siamo l'Italia che sfida le difficoltà. E che sceglie CNA, la forza che sostiene e fa valere le ragioni degli artigiani e delle piccole e medie imprese. CNA e le imprese, valore d'insieme. www.cna.it. A tempo di sport. Come detto, Sir Charles o King Charles, come ho visto qualche cartellone, qualche cartello a Stamford Bridge, si appresta a vincere con il Chelsea il suo primo titolo, il suo primo scudetto in Premier League, perché in realtà non è il primo titolo, come mi ricordava Giorgio De Luca dalla redazione, ha già vinto Community Shield in estate e soprattutto è anche in finale di FA Cup, che giocherà con il retrocesso Portsmouth di qui a poco. Dunque potrebbe fare tripletta addirittura Sir Charles. Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. Chissà se invece Guardiola riesce a salvare le capre e i cavoli. Credo di sì, eh. Ma sì, io direi di sì. L'ultima partita in casa col Valladolid, io vedo, hanno un punto di vantaggio, una situazione simile a quella, se vogliamo, italiana, con un punto in meno, però insomma in realtà conta la vittoria. Sì, è molto complicata il fatto che comunque sia il Valladolid che il Malaga, che è l'avversario del Real Madrid, lottano per non retrocedere. Sono a 36 punti, sono 5 squadre, un vero casino, diciamo, mettiamola, chiamiamolo col suo nome. Sì, la situazione in coda. Ed è molto divertente, secondo me, perché il Valladolid è allenato da Javier Clemente, ex CT della Spagna, basco, che odia Madrid e il Madrid. E quindi, diciamo, se dovesse far punti per salvarsi, darebbe una grossa mano, probabilmente regalerebbe il titolo ai suoi nemici. Sì. E anche a Malaga, che sono altri nemici del Madrid, perché è gestito da Fernando Sanz, figlio di Lorenzo Sanz, nemico numero uno di Florentino Perez, naturale. Quindi sono un po' una telenovela di queste, no, americane. E qua ce ne intendiamo. Qua ce ne intendiamo, Filippo. Io voglio una tua lettura da lì. Voglio la tua lettura da lì su quanto è successo all'Olimpico domenica sera scorsa. Ha fatto discutere tutta la settimana. La mia opinione è che è che il calcio quale è calcio. Quale dei tanti episodi, scusami, no, ti interrompo, no, quale? Ma no, ma sai, quello striscione, oh no, al gol di Samuel, e il clima che c'era, e ovviamente i laziali che facevano tifo per l'Inter. Io dico, insomma, è stata speso un sacco di demagogia in settimana. Io dico che questo è sport, che questo è calcio, che mi dà molto meno fastidio questo di quanto ho visto oggi invece tra Marassi chiuso per inciviltà presunta, possibile, quasi certa, inciviltà per omicidio, no? Per omicidio di 15 anni fa con la tessera del tifoso, che adesso abbiamo capito quanto serve, no? E mi ha dato molto più fastidio quanto ho visto oggi dentro allo stadio di Torino con i capitani, che in Spagna non vanno a parlare con i tifosi, mi pare. No, no, cioè, non risulta. No, da quando sono io episodi così non ci sono. Ma qui tutte le domeniche vanno a parlare con i tifosi col giubbotto nero, quindi succede sempre. Vabbè, ma io posso raccontare questo. Io quando ero in Inghilterra e facevo e commentavo il calcio italiano, e in diretta mi toccò purtroppo commentare il famoso derby fermato dal Cicoria e dal Patata, no? I tifosi della Roma che entrano in campo e parlano, il questore che dice: no, ma non è, il bambino non è morto, non c'è stato nessun morto, nessun investimento, no? Non c'è stato. E loro dicono: no, e la partita viene sospesa, e spiegaglielo tu agli inglesi. E non è facile, non è che cosa sta succedendo, non è facilissimo. Vorrei una tua lettura invece su questo primo atto della telenovela, poi arriva anche il secondo atto, che è quello relativo a Totti. Dimmi. No, voglio dire, io dico una cosa, come al solito in Italia penso che si faccia sempre troppo rumore, perché in Inghilterra è successa una cosa analoga, perché voglio dire, Liverpool col Chelsea non ha giocato bene e probabilmente, diciamo, ha avuto un grosso piacere a perdere col Chelsea per non dare lo scudetto al Manchester United. Ma lì c'era lo striscione gemello di quello dell'Olimpico, Please, sì, beat però, us. Dico, Però si fa con meno rumore, no? Da noi, cioè, se alla fine hanno esagerato, perché no? Non è solo, fosse stato solo lo striscione, no? Lo striscione ci poteva stare, è un momento anche, se vogliamo, di ilarità, no? Di ironia, e va bene. No, voglio dire, il problema è che lì c'è stato tutto il resto, i fischi a muslera, no? Il boato, In Inghilterra sono più discreti, l'hanno fatto un po', diciamo, sembra che abbiano perso bene, no? Sì. O più o meno così, almeno in Europa, mettiamola così, passa questa. Non è, da questo noi messaggio, succede, certo. Succede sempre, no? C'è modo e modo, c'è modo e modo, indubbiamente. Perché è un po', diciamo, io sono di Roma, diciamo, è stata una versione un po' coatta, no? Se mi si passa il termine, un po' tamarra del tipo conto. Molto, molto tamarra, però vorrei anche la tua sull'altra tamarrata di oggi, cioè quella dell'Olimpico, tutti con la maglietta numero 10, la redenzione del capitano. Ha chiesto scusa, ci mancherebbe altro. Qua resto quasi senza parole. Oggi mi è piaciuto abbastanza l'interpretazione che c'era oggi nel mio giornale, la Gazzetta, data da Catapano, che lui è romanista, romano, e parlava di Totti, gli è toccato, e lui diceva che bisogna sempre distinguere dentro il raccordo, fuori il raccordo. Sì, me è così. Ma distinguiamo pure, dentro il raccordo, voglio dire, si perde la ragione, perché si perde la ragione. Ah, perché adesso... Io al di là di tutto, io ti dico una cosa, cioè, adesso com'è possibile che Francesco Totti, il grande campione, arrivi alla 13ª espulsione? È chiaro, uno, se uno vuole, dice, si potrebbe pensare, mi sembra che Zidane sia arrivato addirittura a 15, però appunto è un altro che, grandissimo campione, però io non porterei mai, ad esempio, a nessuno, come esempio a nessuno, con certo. Tutto il rispetto che uno può avere per il campione, però il campione deve essere tale in tutte le sfaccettature, insomma, perché voglio dire, se poi perdi la testa, per me sei meno campione, poi voglio dire, sempre forte sei. Ma sai, questa tendenza al bullismo comunque Totti l'ha sempre avuta, è una caratteristica del giocatore. Dico soltanto che 13 espulsioni col numero 10 sono poche, no? No, sono tantissime. Questa tendenza a farsi giustizia da solo ce l'ha sempre avuta, però anche questo comunque sapere che la gente qualunque cosa faccia è dalla sua parte, lo perdona per qualunque... sai, poi possiamo anche distinguere tra dentro il raccordo anulare e fuori dal raccordo anulare, no? La distinzione che oggi è rimbalzata diverse volte, però fuori dal raccordo anulare rimbalza l'immagine che sta nel messaggio ascoltatore di prima, a differenza che ho già letto molte volte. Quello che arriva all'esterno del raccordo anulare è messaggio dell'Olimpico, Totti ha fatto bene. È difficile leggere in un altro modo, no? Ma questo mi dicono che sulle radio romane siano stati in tanti a dirlo, perché purtroppo si è completamente persa la ragione, cioè si è perso il senno, perché io ho abitato 30 anni a Roma e su certe cose col romanista non si discute. Cioè, è molto semplice, non c'è discussione. E una di queste è il capitano, con la C maiuscola, che è lui. Sì. E non si discute, anche con persone, diciamo, no, con ma le quali magari si può discutere di tante altre cose, anche più importanti del calcio. Certo, certo. No, no, ma è così. E comunque ti ripeto la mia impressione di prima, è che in questa partita, in questo secondo tempo pazzesco di Totti, pazzesco a ragion veduta, lo dico, ci sia molta frustrazione perché per la prima volta è stato messo in discussione il capitano, l'indiscutibile capitano, per la prima volta è stato messo in discussione da un allenatore del testaccio che al momento vince lo scudetto. E non è detto che non possa ancora succedere. No, esatto. Cioè, per me di tutta questa storia, la cosa più importante qual è? Sono i due cambi del derby. Quando Claudio Ranieri, che in Londra, che a Londra ormai mi scappano le parole in itagnol, dico, quando a Londra veniva chiamato il Tinkerman, cioè il pasticcione, perché faceva dei cambi un po' così azzardati, cercava di strafare, poi le cose gli andavano male. Lui nel derby, no, toglie Totti e De Rossi perché soffrono troppo la partita. Cioè, ecco, questa per me quello è, lui è uno di Roma, conosce benissimo la situazione, no? Core testaccino, come si dice. Sì. E lui conosce la situazione e prende una decisione che nessuno aveva mai avuto il coraggio di prendere. Sì. Non anche Carletto Mazzone. No, ma ci mancherebbe. Ma poi se Flocca risegna quel gol 2-0 su rigore al primo minuto, quando ancora non è successo niente, piantano i pali direttamente dentro al campo prima ancora del 90esimo. E lo crocifiggono. Esatto, io quindi questo però dico, lui ha avuto una sensazione che era corretta ed è la prima volta che qualcuno dice no, però magari le cose vanno fatte anche diversamente, no? Non è che per forza questa romanità, no, questo bullismo sono poi così positivi, no? Cioè, può anche darsi che siano controproducenti. Un'ultima cosa, secondo me, rispetto a domenica, a me l'altra cosa è che per me non è stata poi, diciamo, non gli è stato dato il giusto valore, è l'invasione alla fine di quei due o tre che sono entrati, no? Com'è possibile che, no, ci sia ancora gente che può entrare in campo, che può andare lì e fare... No, l'hai detto prima tu, no? Ha sospeso un derby, figurati se non entrano in campo. No, certo, esatto, però voglio dire, è lì che proprio non ci siamo. È questa immagine del calcio ormai completamente dove un po' vale tutto ed è tutto giustificato in nome di una passione che per me, diciamo, la passione per me è una parola che, diciamo, importante, interessante, di valore assolutamente positivo, che invece assume un connotato totalmente negativo. Sì, sì. E l'hanno completamente, si sono appropriati, no, della parola passione, della passione sportiva, per farne qualcosa che per perverso, me è impresentabile. Di perverso, sono d'accordissimo. Sì, sì, impresentabile, con te. Soprattutto poi vedendolo dall'estero, perché io ovviamente anche quella partita lì, io l'ho viste tutte qua dalla Spagna col commento spagnolo. Sì, sì, certo. E qui non è che parliamo, già l'Inghilterra magari sono un pochino più freddi, così, no, qui così, sono, per tanti versi sono simili a noi, hanno lo stesso modo anche di concepire il calcio, però si sono staccati da questo tipo di cultura. Cioè il Barcellona, che noi per tante volte portiamo ad esempio, poi dopo anche loro abbiamo visto che nella sconfitta si perdono anche loro a volte, sì. Come con l'Inter, però voglio dire, la prima cosa che fece il presidente Laporta è di cacciare via gli ultras. Molto semplice, non è che facciamo la testa del tifoso, il tornello. Molto semplice, molto semplice lì. qui un po' più dura, fidati. Non so, però da noi appunto il giapponese che la mattina vuole andare a prendere a comprarsi il suo biglietto e andare allo stadio non ci va. No, perché deve dare il passaporto e cose. A parte che è un po' difficile, che magari il giapponese dice: ma perché devo farmi schedare da questi? Ma per quale ragione al mondo? Filippo, io da te voglio ancora una parola, una sola, per rispondere a una domanda di un ascoltatore. Ma chi va sulla panchina del Real? Benitez o Mourinho? No, se devono cambiare, tra i due non c'è corsa, Mourinho. Ecco la parola che aspettavo. Se si cambia non c'è, cioè, qui lo aspettano a braccia aperte, poi bisogna vedere se l'Inter lo lascia andare via, se lui vuole andare via e mille altri se. Però insomma, se Pellegrini non vince la Liga, come mi sembra estremamente probabile, in Champions League non ne parliamo, sembra difficile che venga riproposto su quella panchina, Questo senz'altro. Io chiudo, a me piacerebbe tanto che Real Madrid vincesse la Liga, solo per vedere poi, diciamo, per veder cacciare lo stesso Pellegrini, sarebbe il quinto allenatore di seguito cacciato, perché io mi fermavo, no, gli ultimi sono stati Del Bosque, poi Capello, poi Schuster ci hanno messo qualche mese in più, ora toccherebbe a Pellegrini, però mi citavano anche Heynckes. Sì, che vinse la Champions League e poi fu cacciato, io lì ero ancora in Inghilterra. Ecco, però mi piacerebbe molto vedere l'ennesimo allenatore che vince e viene mandato via, devo dire, è divertente, divertente. Non succederà, verrà mandato via senza aver vinto, quindi hanno anche il valido motivo, la valida ragione. Grazie Filippo. Grazie a voi. Un abbraccio. Un abbraccio, un abbraccio. Traffico. Pubblicità. Il conto di che banca? Il conto di che banca? Un euro al mese e non hai mai sorprese. Con un euro al mese si può gioire. Oh, evviva, evviva. Corrente di che banca ha un canone di un euro al mese, senza sorprese. Per i fogli informativi 848-444-488 o chebanca.it. Che banca, gruppo Mediobanca. Strade in diretta. 2 chilometri di coda per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Voghera e Casteggio in direzione di Torino. Altrove proseguono gli spostamenti e i rientri del fine settimana sulla rete. Il traffico è intenso sull'Autosole attorno a Firenze e sul tratto appenninico, verso Bologna sulla A14 Adriatica e lungo la A4 Milano-Brescia in direzione di Milano. Attorno a Genova sulla A12 si formano code verso Genova tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 per operazioni di ripristino dopo un incidente. A causa di lavori, attorno a Pescara 1 chilometro di coda sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari. E sempre in tema di cantieri, ricordiamo che attorno a Roma, da ieri sul tratto urbano della A24, è chiusa la rampa di immissione per la tangenziale est in direzione della Salaria. Inoltre è chiusa l'entrata di Portonaccio verso la tangenziale est. I lavori dureranno circa 10 mesi e sono parte degli interventi necessari per la realizzazione della nuova circonvallazione interna e la nuova stazione ferroviaria di Tiburtina. È tutto, torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Riprendo con grande piacere a parlare con gli ascoltatori oggi numerosissimi. 800240024, numero verde, abbiamo ancora una decina di minuti. Nota di servizio. Francesco, buonasera da Milano. Oh, buonasera dottor Genta. Buonasera. Tre cose velocissime. Prego. La prima, toccando tutto il ferro possibile e immaginabile, se l'Inter lei è interista. Sì, se l'Inter dovesse vincere la Champions avrebbe il privilegio di avere battuti i campioni d'Inghilterra in carica, i campioni di Spagna che stanno per vincere e i campioni di Germania che l'hanno appena vinto. Quindi sarebbe sicuramente una grande Coppa dei Campioni. Certamente, il ferro ce l'ha portata di mano? Il ferro ce l'ho portata di mano. Per fortuna siamo per radio, eh? Ok, è qualcos'altro. La seconda cosa è che il buon senso, visto il clima, vorrebbe, e anche il fair play, che Inter e Roma si mettessero d'accordo per anticipare le rispettive partite al sabato, in modo da concedere un giorno in più all'Inter ed evitare la concomitanza con Milan-Juve, sì, che è a Milano, e quindi visti i tempi sì, non ci vuole guardi, un genio a stabilire una roba del genere. Sì, però guardi, dopo che hanno permesso di giocare in maniera differita Lazio-Inter mentre Atalanta-Bologna era andato in scena al pomeriggio, come si fa a pensare una roba del genere? Cioè, Quindi ci sarebbe anche il giorno per il riposo in più. Insomma. Il buon senso è morto da tempo. È morto. Da tempo. È un'ultimissima cosa velocissima. Prego. Che ringrazio Dio che sulla panchina ci sia Mourinho, perché secondo me a Siena si sta preparando la trappola perfetta per l'Inter. Nel senso che se ci fosse Cooper noi lo scudetto l'avremmo già perso. Mourinho è più dura a fregarci, mi sa che, questa volta. Al di là di Mourinho, mi sa che è un'altra squadra in cui Mourinho c'entra molto, per la verità. Sì, sì. Perché questa squadra l'ha fatta lui, perché questa squadra assomiglia a lui, e perché questa è una squadra che per strada non lascia niente. Quindi direi che è un altro film questo. Chiaro che gli interisti sono tutti ancora traumatizzati, no? da certe cose successe in passato, però le assicuro che il discorso è totalmente diverso. Sarei molto sorpreso, al di là delle trappole di tutto quanto lei dice di mezza Roma romanista eccetera eccetera, molto sorpreso se non finisse così. Mario da Milano, buonasera. Buonasera dottore, grazie per l'ospitalità. Volevo riflettere su questo, su quanto segue, e chiedere anche la sua opinione. Per quanto concerne l'Inter e il confronto con la Roma, che in questo campionato li vede appaiati, li ha visti appaiati in finale di Coppa e anche appunto fino adesso, alla fine del campionato, Io ritengo che non sono interista, non sono romanista, premetto, però una valutazione da sportivo va fatta, che la squadra dell'Inter, così come è stata costruita quest'anno, è stato detto pochi istanti fa, è una squadra che negli ultimi anni non ha precedenti, non ha sbagliato gli acquisti, è costruita con una mentalità vincente, si vede soprattutto nei primi 20 minuti delle partite, a differenza di quello che succedeva negli anni scorsi. Mario, l'Inter è uno squadrone. È uno squadrone, e poi mi ha anticipato anche il precedente dell'ascoltatore, cioè è una Coppa Campioni eventualmente toccando ferro per gli sportivi italiani che viene fatta. Vinta battendo, avendo battuto i campioni d'Inghilterra, i campioni sì, spagnoli. Ma infatti l'Inter ci va a quella finale con il vestito pesantissimo ma bellissimo da grande favorita, non c'è dubbio sul fatto che insomma sia strameritata questa finale. E poi guardando anche indietro le precedenti competizioni e edizioni, è una delle poche volte in cui in finale si scontrano due squadre di vertice dei rispettivi campionati, perché molte volte appunto quelle che vincono il campionato... Beh, ma sa, ormai è... Io sono sempre dell'idea che ormai c'è un'elite, no, di squadre che hanno la Champions League come obiettivo primario e che costruiscono, spendono, programmano per quello, e che nei singoli campionati, nei campionati nazionali sono delle specie di corazzate nello stagno, no? Quindi c'è questa oligarchia del calcio europeo che è reale di fatto, e abbiamo Barça, Real in Spagna, abbiamo Chelsea e Manchester United in Inghilterra, abbiamo l'Inter in Italia, c'è il Bayern di Monaco da quelle parti, quindi non mi sorprende il fatto di trovare in finale due squadre che dominano i rispettivi campionati. Prima di andare a Napoli da Luciano, vado a Londra, a Stamford Bridge, per sentire i rumori di quello stadio che è tutto per Carlo Ancelotti oggi. Buon pomeriggio Carlo, sì, appena finita la partita il Chelsea ha vinto 8-0 contro il Wigan e si è laureato per la quarta volta campione d'Inghilterra. Doveva vincere, gli bastava vincere anche 1-0 per mantenere il punto di distacco sul Manchester United secondo, e l'ha fatto in grande stile. 8 gol che ha portato il totale dei gol realizzati in questa stagione a 103 gol addirittura in 38 partite, addirittura 68 in casa con una media di 3 gol e mezzo. Insomma, a partita ha vinto la squadra più forte, che ha segnato più gol, che ha migliore differenza reti, che ha vinto più partite, che ha la seconda miglior difesa, ha perso meno di tutti, solo 6 incontri, e soprattutto ha vinto tutti gli scontri diretti sia con Manchester United che con Arsenal, dimostrando quindi una netta superiorità rispetto alle sue avversarie. Grandi applausi oggi e per la prima volta anche cori rumorosissimi per Carlo Ancelotti, che ha ringraziato in più di un'occasione durante la partita. Insomma, i meriti sono tanti anche dell'allenatore italiano, che ha ridato fiducia e entusiasmo, certo, e una precisa identità tattica di una squadra che all'inizio della stagione sembrava un po'... È una squadra da ricostruire. Lorenzo, lasciami dire, ha vinto la squadra più forte e ha vinto l'allenatore migliore, cioè io sono di parte, mio amico Carletto Ancelotti, per me oggi è già festa, per gli interisti c'è ancora, o per i romanisti c'è ancora una settimana di tempo. Grazie a Lorenzo Amuso da Stamford Bridge, io chiudo il programma, 2 minuti, Luciano da Napoli, buonasera. Buonasera dottore, buonasera. 8-0, sostanzialmente partita equilibrata, diciamo. Sì, c'è stata gara fino all'ultimo. Senta, io volevo dire due cose velocissime sul caso Totti. Sì. Volevo dire questo, che la reazione della tifoseria della Roma a un fallo violento, a un'azione violenta del capitano Totti, a me sinceramente non meraviglia, dottore. Le dico, ma non è una questione di meraviglia, Luciano, siamo sempre lì. Non mi stupisce in questo senso, cioè che, le parlo dell'ultimo mese e mezzo, quando a una tifoseria si perdona quello che è successo a Bari con Bari-Roma, quando a una tifoseria si perdona quello che è successo dopo il derby, e quando a una tifoseria si perdona quello che è successo dopo Roma-Inter con accoltellamenti vari, io non mi meraviglio che dopo a un atto violento come quello del capitano Totti si schierano tutti dalla sua parte. A me non è una cosa che meraviglia. Ma insomma, a me è un po' meraviglia, cioè, non è che mi meraviglia, è una cosa, ripeto quanto abbiamo detto prima, no? Dentro la corda anulare, fuori dalla corda anulare, certo il messaggio, senza stare ad andare a guardare tutto il pregresso, no? Andare a Bari, poi al derby, eccetera, eccetera, ma con ampie ragioni, lei lo fa e con ampie ragioni, senza stare a guardare tutto quello, il messaggio che esce dal circolo del raccordo anulare è quello che che ha sintetizzato l'ascoltatore che ha mandato l'SMS prima da Firenze, il messaggio è quello. Ciò che mi stupisce, un po' mi amareggia, è che un allenatore come Ranieri si sia accodato al corteo pro Totti. Poi Roberto Beccantini fa bene a dire: bisogna essere nella bocca del leone a Roma per capire bene, lo so, però da fuori raccordo anulare la sensazione che ho è questa e un po' mi dispiace, tutto qui. Adesso mi fermo, ma ci sentiamo anche oggi, non c'è campionato di Serie A come sapete, ma c'è la finale di Coppa dei Campioni, di Eurolega, di basket, questa sera la aspetteremo insieme dalle 20.30 alle 21, parleremo di nuovo di basket. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia, più tardi.